l'arca del Signore rimase nel territorio dei Filistei 7 mesi. Allora i Filistei si rivolsero ai sacerdoti e agli indovini dicendo: «Che cosa dobbiamo fare dell'arca del Signore? Fateci sapere in che modo la dobbiamo rimandare alla sua sede». Quelli risposero: «Se voi volete rimandare l'arca del Dio di Israele, non la rimandate senza doni, ma dovete renderle un dono espiatorio. Allora guarirete e saprete perché la sua mano non si allontanava da voi». Domandarono: «Qual è il dono espiatorio che le dobbiamo fare?» Risposero: 5 bubboni d'oro e 5 topi d'oro, secondo il numero dei capi dei Filistei, perché è la stessa piaga per voi tutti e per i vostri capi. Farete figurine dei vostri bubboni e figurine dei vostri topi che mandano in rovina il paese, e darete gloria al Dio di Israele. Forse la sua mano si farà più leggera su di voi, sui vostri dei e sulla vostra terra. Perché volete intestardirvi come si intestardirono l'Egitto e il Faraone? Forse che non li lasciarono partire quando egli fece sentire il suo rigore ed essi se ne andarono? Adesso dunque allestite un carro nuovo e prendete 2 vitelle allattanti che non abbiano mai portato giogo su di sé. Attaccate le 2 vitelle al carro e conducete via da esse i loro piccoli alla stalla. Poi prendete l'arca del Signore e ponetela sul carro. Gli oggetti d'oro che le offrite in dono di espiazione li deporrete in una cassetta al suo lato. La rimanderete ed essa se ne andrà. Poi osservate: se salirà verso il suo territorio a Bet Semes, fu lui a causarvi questo grande male. Altrimenti sapremo che non è stata la sua mano a colpirci, ma ci è capitata una disgrazia. Così fecero quegli uomini. Presero 2 vitelle allattanti, le legarono al carro e rinchiusero i loro piccoli nella stalla. Poi caricarono l'arca del Signore sul carro insieme con la cassetta, i topi d'oro e le figurine dei loro bubboni. Allora le vitelle si avviarono dritto sulla strada di Bet Semes. Procedevano per la stessa via sempre muggendo, senza deviare né a destra né a sinistra, mentre i capi dei Filistei andavano dietro ad esse fino al confine di Bet Semes. Quelli di Bet Semes stavano mietendo il grano nella vallata. Alzati gli occhi, essi scorsero l'arca e gioirono al vederla. Il carro, arrivato al campo di Giosuè il Betsamita, vi si fermò. Lì c'era una grande pietra. Allora, spezzati i legni del carro, offrirono le vitelle in olocausto al Signore. I Leviti deposero l'arca del Signore e la cassetta che era con essa, contenente gli oggetti d'oro, e la collocarono presso la grande pietra. Gli uomini di Bet Semes offrirono in quel giorno olocausti e fecero sacrifici al Signore. I 5 capi dei Filistei stettero ad osservare e poi ritornarono ad Accaron nello stesso giorno. Questi sono i bubboni d'oro che offrirono i Filistei in dono di espiazione al Signore: 1 per Asdod, 1 per Gaza, 1 per Ascalon, 1 per Gat, 1 per Accaron. I topi d'oro furono secondo il numero di tutte le città dei Filistei dei 5 capi, sia città fortificate che villaggi sguarniti. Testimone di ciò è la grande pietra dove deposero l'arca del Signore e che sta nel campo di Giosuè il Betsamita fino al giorno d'oggi. Dio percosse tra gli uomini di Bet Semes, che avevano curiosato nell'arca del Signore, 70 individui su 50.000. Il popolo fece lutto perché il Signore l'aveva colpito con un grande flagello. Allora gli uomini di Bet Semes dissero: «Chi può stare davanti al Signore, un Dio così santo? Da chi la manderemo lontano da noi?» mandarono messaggeri agli abitanti di Kiriat Yearim per dire: «I Filistei hanno ricondotto l'arca del Signore. Scendete e portatela su da voi».